È emerso che il sistema mafioso lombardo, quello che era stato ipotizzato dai magistrati della DDA e documentato dai carabinieri che hanno indagato per 3 anni su summit, incontri, affari di mafia, estorsioni ovviamente, possesso di armi, droghe, ma soprattutto sull'ipotesi che le tre grandi mafie, le emanazioni di tre grandi mafie fossero messi d'accordo e in affari in Lombardia per spartirsi la torta. E questa ipotesi è stata confermata in pieno, un impianto che ha retto in questo processo di rito abbreviato in primo grado, ci sarà poi una parte di processo ordinario per altri imputati. Di fatto l'ipotesi che appunto in Lombardia comandassero le tre mafie insieme è stata accolta dai giudici, nonostante un iter molto tortuoso di questa indagine, perché non dimentichiamo nel 2023 il GIP aveva bocciato quasi tutte le richieste di arresto, c'era stata una grossa discussione anche di studi da parte di studiosi, teorici dell'antimafia sull'impossibilità di uno schema del genere in Lombardia, invece lo schema esisteva, ha proliferato, ha fatto affari, ha fatto molti soldi e oggi anche quei soldi sono stati confiscati come corollario di questa sentenza, si parla di 450 milioni di euro e con una testimonianza tangibile di quanto questa mafia fosse pervasiva e pericolosa. Il nome dell'inchiesta, Idra, appunto racconta proprio di questo mostro a tre teste. Quali sono i settori di intervento della criminalità organizzata in Lombardia? In quel momento c'era la riforma del 110, poi ci sono le false fatturazioni e poi c'è il core business tradizionale della mafia, però era una mafia che in tempo di Covid, con la sola droga, con le sole estorsioni, con la sola presenza sul territorio, non riusciva a mantenersi, a proliferare, a stipendiare i suoi affiliati, anche chi finiva in carcere, quindi si è dovuta reinventare attraverso dei professionisti, dei colletti bianchi della truffa. Ci sono un paio di fratelli Abilone che sono figure centrali e simboliche di questo sistema, capacissimi di riciclare denaro, di truffare lo Stato, di moltiplicare i contanti e i denari per poi reinvestirli nei canali classici della criminalità organizzata. Questi fratelli venivano da Castelvetrano e non dobbiamo dimenticare che una delle componenti di questo mostro a tre teste, di questa idra, erano proprio le famiglie di Castelvetrano, gli emissari di Matteo Messina Denaro, come Paolo Aurelio Arcante Parrino, che sarà giudicato in corrido ordinario prossimamente quando comincerà la seconda parte del processo Idra, un parente, un cognato di Matteo Messina Denaro, che allora era ancora latitante e allora diciamo forniva il territorio di Campobello di Mazzara, dove lui si rifugiava per ospitare alcuni di questi meeting delle varie famiglie, di questi summit delle varie famiglie di Camorra, Andrangheta e Mafia. Ora aspetteremo appunto anche il processo ordinario e poi anche magari gli altri gradi di giudizio, però ti voglio fare un'ultima domanda che riguarda un po' la percezione della popolazione lombarda. Sappiamo che le mafie sono ormai radicate in tutto il nord, anche qui in Emilia Romagna, insomma abbiamo avuto grandi processi in questo senso. Nella popolazione appunto milanese, lombarda, c'è la percezione di questa presenza? C'è la percezione, ma è una percezione, se vogliamo, addirittura positiva. Alle mafie ci si rivolge per recuperare crediti, con metodo estorsivo evidentemente. Alle mafie ci si rivolge quando si finiscono i contanti e c'è bisogno di un aiuto, pensando che rivolgersi a un boss di 'ndrangheta non significhi farsi spolpare e poi farsi togliere tutto dalle famiglie. Anche questa inchiesta dimostra in continuità, come ha fatto l'inchiesta Infinito, quella del 2010, quella che disvelò le locali di 'ndrangheta in Lombardia, che il territorio purtroppo è permeabile alla presenza di mafia. Solo che questa, l'importanza anche storica di questa inchiesta è appunto che riscrive un nuovo capitolo, un nuovo paradigma di lettura delle mafie. Prima mafia era soltanto il summit dei boss che brindavano, che si spartivano il territorio, che eleggevano i rappresentanti della cupola. Ecco, adesso si dimostra la fluidità delle varie famiglie mafiose, delle diverse appartenenze mafiose e la loro capacità di seguire i flussi, magari di anticipare i flussi dell'economia e anche le strategie della magistratura dell'antimafia. È una mafia intelligente, una mafia che continua a saper fare affari sul territorio e purtroppo il territorio continua a essere molto accogliente rispetto a queste famiglie.